buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio 3. Questa è Piazza Verdi, come ogni sabato dalle 15 alle 18. Staremo insieme per parlare di tanti argomenti molto interessanti. Saranno con me, come sempre, Elio Sabella, autore del programma, Lili Minutello, in redazione e in regia, la nostra collaboratrice Laura Cappon, mentre ci accompagnano alla console Antonino Faranda e Massimo Piffaretti. I nostri numeri 335-563-4296, se volete mandare i vostri sms, oppure piazzaverdi@rai.it per le vostre email. Scusate se vi importuno. Ci mancherebbe, lei qui a casa sua. Grazie. Ha trovato poi il negozio e le pile? No. E come fa? Non ci sente. Da quel capodanno, sapete, quel botto. E non sempre, solo in alcuni casi molto particolari. Quali? In quali casi? Scusate, ho notato che il riscaldamento della mia camera è sul 2, mentre a casa mia sono abituato a tenerlo sul 4. Temo che avrò un po' di freddo. Ma nessun problema, lo imposti sul numero che preferisci. Ma certo. Faccia lei. Grazie, come siete gentili. Ci mancherebbe. Scusate, ho anche notato che la mia finestra non ha gli scuri. Io all'alba soffro la luce. Come si può fare? Ma possiamo fare una tenda provvisoria con una coperta? Ce ne sono tante. Ma certo. Faccio io. Grazie, ma come siete gentili. Ma ci mancherebbe. Scusate, ho anche... Mamma, questo. Come? Cosa? Ha detto qualcosa? Io no. Sì, l'ho sentito, ha detto una cosa tipo mamma questo. Ma no, ho detto calma e presto. Sì, a me, perché io mi stavo subito attivando con la coperta. Per la finestra io ho detto calma e presto. In effetti ancora un po' di tempo c'è, o vuole andare a letto adesso? No, adesso no. Quindi? Va bene, scusate. Ci mancherebbe. E dicevo, ho anche notato... Quando uno rompi palle... Chi? Che cosa? Dice a me. Che cosa, scusi? Lei ora ha detto, mi pare, rompipalle. Io? Ma no, sì, ma sì, lei ha detto quando uno è rompipalle. No, ha capito male, ho detto spalle. Quando uno è rompipalle. Guarda un bello scialle. Non era spalle? Per le spalle. Uno scialle per le spalle. In effetti fa un po' di freddo. Gaia, vedi se c'è uno scialle. Perché... Certo, poi vado a vedere Antonio, appena finiamo di parlare con questo stronzo. No, adesso l'ho sentito. Cosa? Stronzo. Stronzo io? No, io. Lei è stronzo? No, perché? No. Scusate, lei ha detto stronzo. Stronzo a me adesso. Io no. Ma sì, l'ho sentito, ha detto vado a vedere Antonio appena finiamo di parlare con questo stronzo. Ma no, appena finiamo di parlare faccio uno sforzo. Sì, sforzo, ecco, io l'ho sentito. Si fidi, signor pretore, era sforzo, perché io sono un po' pigra, perciò per alzarmi faccio uno sforzo, ma può capitare, uno fa sforzo e viene stronzo. È un classico. Va bene, allora scusate, mi devo essere sbagliato. Ma si figuri, sto coglione. E adesso però. Ci sto. Maresciallo. Un attimo, lei ha detto. Ci sto. Dove sono le carte? Che carte? Le carte, per giocare. Perché le carte? Vuole giocare a carte? Aspetti, maresciallo, devo appurare una cosa. Antonio, mi scusi, lei ora ha detto a me sto coglione. No, io ho detto... Scopone. Io ho sentito scopone. Vero, Antonio? Scopone? Scopone, sì. L'ho sentito chiaramente. Scopone. O ha detto... Sto coglione! Io? No, lui! Ah, io sono coglione! No, lui l'ha detto scopone. A me! Scopone! Ha detto scopone. Vero, Antonio? Ma... Scopone! In effetti ha detto scopone. Vede? Io ci sto. Ci sto io qui, adesso. E non ci saranno più equivoci, notaio. E si capirà. Si capirà tutto. Ci sediamo qui, tutti insieme, e giochiamo. A scopone. Ma io non amo giocare a carte. No? Ma sì, invece, poi lo hai appena proposto. Una bellissima idea, bravo Antonio. Bravo Antonio. Non so nemmeno dove ho le carte. Bravo Antonio. Bravo Antonio. Grazie. Sediamoci. Io mi scuso, avevo capito sto coglione. E queste erano le voci di Anna Della Rosa, Rosario Lisma, Andrea Narsi e Marco Balbi, da una registrazione che appartiene allo spettacolo Bed and Breakfast, La Casa Felice. Diamo il benvenuto a Anna Della Rosa e Rosario Lisma. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Eccovi, ben ritrovati, visto che capita ogni tanto di rivederci. È quando ci piacere. Sono ovviamente nuovi testi e nuove regie firmate Rosario Lisma. Qui siamo a un nuovo impegno, dunque. Sì, è uno spettacolo che ha debuttato ieri sera, quindi è proprio... Siete freschi di debutto. Fresco, sì. È andata bene, siamo molto contenti, saremo in scena fino al 12 di giugno. E sì, è l'ultimo nostro spettacolo. Noi abbiamo una piccola compagnia che si chiama Iacovacci e Busacca, con cui abbiamo fatto già Peperoni difficili. Che è, insomma... un successo grandissimo, sì. Al punto che adesso dovete mantenere quel livello. Sì, insomma. L'aspettativa è molto alta. No, beh, insomma, quindi... Però, ecco, abbiamo fatto uno spettacolo anche un po' diverso da Peperoni difficili questa volta, perché è sempre una commedia umoristica, ma nel genere ci siamo un po' spostati. Intanto chi erano i quattro personaggi che abbiamo appena sentito? Sono Antonio e Gaia, che sono una coppia di trentenni che si avviano per i 40, che sono marito e moglie, e il notaio e il maresciallo. Il notaio che è Marco Balbi, appunto, e il maresciallo Andrea Narsi. Esatto. Che vengono attirati nella trappola di questo nuovo bed and breakfast che inaspettatamente riusciamo ad aprire molto in anticipo sui tempi rispetto allora, ai nostri programmi. Diventando, si sta creando un po' configurando una linea un po' angosciante che riguarda queste sì. nuove attività tirate un po' in piedi così per fare cassa. Ecco, abbiamo parlato infatti qualche settimana fa a proposito di Airbnb, sì. e con Bruno Fornasari anche lì si andava sul sì. noir. Qua siamo a una coppia che decide di trasformare il proprio appartamento in un bed and breakfast, e anche qui si salvi chi può. Sì, cioè, perché c'è qualcosa che ti lascia un po' assolutamente perché insomma, svelo subito diciamo la prima scena che è quasi appunto un antefatto praticamente. Comunque abbiamo appunto la notizia della morte dei genitori di lui che sono i proprietari della casa dove vivono e insieme ai genitori, quindi ecco, siccome sono due giovani laureati, lui in legge, fa l'avvocato ma è sottopagato, lei in lingue straniere ma è disoccupata, sono costretti a vivere con i genitori, con gli anziani genitori, ottantenni, che però, siamo al 30 dicembre, in quei giorni si trovano a Sharm el Sheikh per una vacanza, genitori che non sono mai usciti da casa propria, però stranamente insomma hanno accettato questo regalo da parte dei giovani, sono andati in vacanza, ma arriva il maresciallo dei carabinieri a portare una notizia terribile, cioè i due vecchi sono rimasti uccisi per un attacco dei fondamentalisti islamici lì all'albergo. I due si abbracciano sconvolti, ma subito scoppiano a ridere e a gioire, perché finalmente erediteranno la casa per poterne fare appunto il bed and breakfast, il loro sogno, proprio perché il loro lavoro non gli permette di vivere una vita dignitosa. E allora in questo caso Rosario Lisma attinge come sempre al quotidiano, alla realtà, alla società, per tirare fuori questi ultra trentenni, i cosiddetti bamboccioni, sì. insomma, quelli che vivono, che sono costretti a vivere con i genitori. Sì. E farne che quadro? E farne il quadro di chi è frustrato per tutta la vita, di chi ha fatto per tutta la vita il proprio dovere, cioè ha studiato, di chi si è impegnato, di chi ha creduto alle promesse della società, ma poi quando appunto si ritrovano a riscuotere il premio, il dovuto, i banconi dei premi sono vuoti. E quindi cosa fare per finalmente avere un posto nel mondo e avere finalmente un compimento della propria vita, cioè la felicità di una vita normale, dignitosa, inventarsi qualcosa. E in questo caso appunto la cosa diciamo che più è a portata di mano è il mattone, è la casa che sicuramente erediteranno prima o poi, ma quando questi vecchi non muoiono mai e loro si, invece i giovani vanno verso i 40 anni, pensano che ormai sia abbastanza tardi e che bisogna fare in fretta. Da dove è arrivata l'ispirazione per questo tema? Ci sono delle notizie, la cronaca, qualcosa? Beh, che diciamo sicuramente dall'osservazione dei miei coetanei e della nostra generazione. Io ho già 40 anni, però insomma sono anni, no, che ci diciamo che la nostra generazione per la prima volta è quella che sta peggio della generazione precedente, non era mai successo. E ecco, quindi da questo ovviamente, poi anche dall'osservazione dei genitori, dei nonni, che sono il vero tessuto, il vero welfare, no, del nostro paese. Totale. E allora ecco, mi sono chiesto, nella contraddizione, diciamo, anche dei sentimenti familiari, eccetera, bisogna essere grati ai genitori, ai nonni che ci mantengono, parlo ovviamente in generale, oppure essere grati invece alla morte che se li porta via, perché finalmente ereditiamo quello che pensiamo ci spetta. È un sentimento ambivalente che mi incuriosiva molto. Ed è un interrogativo inquietante. Inquietantissimo, sì. Come lo risolvono i nostri personaggi? Proviamo a sentire il secondo estratto che avete portato qui, per cui poi parliamo a proposito di dove siamo, cosa sta accadendo in questo momento. Un altro estratto appunto da Bed and Breakfast, La casa felice. Maresciallo! La mazza! No, lei è la mazza! La macchia, dicevo! Mi dispiace disturbarvi, ma ho bisogno del vostro aiuto. Le strade sono per lo più allagate e c'è l'ordine di non circolare. Abbiamo messo a disposizione i locali della caserma e alcuni alberghi per gli sfollati e i senza tetto. Io stesso ho destinato il mio appartamento per una famiglia che abitava a pian terreno. E adesso sto cercando una sistemazione temporanea. Sapreste indicarmi qui in zona un albergo, una pensione o anche un... Bed and breakfast? Sì, certo, può andar bene. Signor maresciallo, io lo dico... Questo è un bed and breakfast. Ma come? Abbiamo avviato un'attività di bed and breakfast. Qui, in questa casa. Ma quando? Mezz'ora fa. Il tempo di elaborare il lutto. Ma perdonatemi. Vi ho dato io stesso la notizia solo stamattina. Sì, sì, mezz'ora fa. Era un'idea che avevamo già, ma questa cosa, capisce, ci aiuterà a sopportare, ad andare avanti, a fare i primi soldi. Abbiamo già un primo cliente, cosa crede? Lei è il secondo. Io non so, veramente... È solo un primo periodo di collaudo, ovviamente. Dobbiamo ancora iscriverci alla Camera di Commercio, ma ci aiuterete a far partire la nostra attività. Non voglio certo giudicare la vostra situazione emotiva, ma confesso che questa vostra voglia di ricominciare così gioiosa mi lascia un po' interdetto. E io non so se... Maresciallo, lei ha mai vissuto un lutto del genere? No. Dove sono i suoi genitori? Io... Ma... Che cosa c'entra? Dove sono? Sono in Val di Stella. Siamo di lì. Val di? Stella. Oh. Perché? Vivono, dunque. Può vederli quando vuole. No. Come no? Non ci vediamo più ormai, no. Il lavoro... Ecco, mi trasferiscono sempre. Certo, è un carabiniere. Ecco, quindi dicevo, lei potrebbe vedere se volesse ogni tanto i suoi genitori, mentre mio marito lo guardi. Lui no, lui non può più, lui, i suoi anziani genitori. Non li potevo vedere. Non li può più vedere, e non sembra, ma in realtà è sconvolto. Anche se non sembra. Sa cosa ci vorrebbe in questi momenti di grande, come dire, sadness? Di? Tristezza. No, non tristezza, dejection? Mestizia. No, dico. Discouragement. Scoraggiamento. Sconforto, great. Lo stavo dicendo io. E l'ho detto io. Sa cosa ci vorrebbe? Un nuovo inizio, una pace ritrovata. Delle persone per casa che passassero questi giorni bui insieme qui con noi, in armonia e gioia, per ricominciare. Lascia che i morti seppelliscano. Anche lei è un appassionato di horror movies. Ma cos'era, Stephen King o Dario Argento? Maresciallo, lo faccia per lui. Mio marito è forte. La mazza lo guardi, però... Potrei crollare da un momento all'altro. Potremmo intitolare il B&B al tuo povero papà. Felice. Oh sì, mi piacerebbe. Felice. Maresciallo, che ne dice? Accetta il nostro invito? Non so. Allora, intanto scopriamo che Bed and Breakfast si pronuncia Bed and Breakfast perché c'è qualcosa di cattivo. Sì, come cattivo, sì. C'è molta cattiveria in questi personaggi. C'è molto cinismo. Eh sì, come dire, è quasi l'orgoglio senza pudore, è anche un po' nichilista, di non fare mistero della propria felicità a discapito di quell'altrui, cioè della derivante dalla tragedia altrui. Ecco. Allora, è chiaro, Lisma, che a questo punto si stanno delineando un po' delle linee guida sul suo teatro, sul suo modo di scrivere, no? Cioè attingere alla società, avere questa forte vena ironica, anche sarcastica, e poi però a un certo punto dei begli affondi seri anche critica sociale, su quello che si vuole. Succedeva con Peperoni difficili, succede anche in questo caso. E poi c'è una caratteristica molto importante del suo modo di fare teatro, cioè che c'è una storia. Sì. Non si può prescindere da questo. Beh sì, è quello che mi ha spinto anche da piccolo a pensare di voler fare questo mestiere, appunto il voler ascoltare delle storie e quindi poi aver voglia di raccontarle, di interpretare dei personaggi diciamo tridimensionali a tutto tondo che vedono accadere delle cose davanti al pubblico, davanti alle quali si stupiscono, gioiscono o si disperano e poi diciamo andare a vedere insieme al pubblico come va a finire. Ecco, questo è quello che mi piace vedere da spettatore e poi che mi piace fare. Ovviamente mi piace anche un teatro anche più di immagine o anche lontanissimo da quello che faccio io. Non sono, ecco, così soltanto chiuso nel mio ambito. Però, ecco, mi piace proprio condividere le storie con il pubblico, di sicuro. E anche la parola. E anche la parola. Centrale, assolutamente. Assolutamente, perché, insomma, penso che, e ne ho riprova, diciamo, davanti al pubblico ogni volta, penso che sia quello che piace sentire, piace vedere. Noi ancora oggi nella vita vera ci esprimiamo con le parole, che non sono l'unica cosa con cui ci esprimiamo con il corpo, con gli sguardi, con i silenzi. E tutto questo insieme alla parola noi cerchiamo di fare a teatro. Che cosa chiede ai suoi attori Anna Della Rosa? È una domanda difficile perché non è solo attrice, ma anche moglie di Rosario Lisma, quindi bisogna un po' fare dei distinguo come attrice. Certo, no, ma siamo in grado di farlo, altrimenti non potremmo lavorare insieme. Chiede una precisione micidiale, chirurgica, e tuttavia dà anche molta possibilità di gioco, poiché il testo è scritto appunto essendoci come base una struttura drammaturgica umoristica, è scritto con dei tempi, dei ritmi di gioco comici, per cui rigore e gioco. Voi siete insieme anche, il pubblico lo sa senz'altro, nella fiction Tutto può succedere in televisione. Sì. In qualche modo l'esperienza televisiva può aver influenzato quella teatrale, cioè l'idea di questi interni familiari, chiaro che siamo qua ad una scrittura propria, nella fiction non c'è la sua firma, c'è il suo ruolo come attore, ecco, però sono esperienze che si parlano o proprio le dividiamo? Beh, devo dire che forse no. Sto pensando a un prossimo testo che non ho nemmeno immaginato con precisione, però che stavolta potrebbe ambientarsi in un luogo che non sia una casa, potrebbe essere un bar, un locale pubblico. Comunque sia, penso sempre che le cose più importanti che ci accadono e i luoghi che ci vedono aprirci sempre di più o in cui scoppiano le nostre contraddizioni sono sempre, diciamo, gli interni di solito familiari. Sì, penso a Chekhov, penso a Edoardo, ecco, cose così, ecco. Potremmo anche ambientarlo in un prato, in un bosco, delle cose di questo genere, però ecco, secondo me viene un po' si finirebbe un po' comunque peggio per descrivere i rapporti umani. Assolutamente, perché la cosa a cui tengo di più, ancora più che la critica per la società, come dicevamo prima, è alla fine proprio la contraddizione tra i rapporti umani e anche mi piace sempre indagare la contraddizione all'interno delle nostre coscienze, ecco, anche i temi etici rispetto al nostro vivere quotidiano, anche più banale. Allora, adesso ci state per regalare dal vivo questa volta il terzo estratto dello spettacolo. Diciamo che siete in scena da ieri sera fino al 12 giugno al Teatro Franco Parenti di Milano. Che cosa succede a questo punto e dove siamo in quest'altro assaggio dello spettacolo? Siamo di notte in camera da letto, ma non la nostra camera da letto, ma quella dei genitori morti. Sono morti, decidiamo di profanarla. Anzi, l'abbiamo già profanata nel pomeriggio facendoci l'amore e adesso andiamo a dormire in questa stanza, poiché nelle altre camere ci sono i due primi ospiti, il notaio e il maresciallo. Dovete sapere che i due avevano in mente qualcosa che non si capisce bene cosa, ma da fare nei confronti dei genitori, contro i genitori. I genitori sarebbero tornati dall'Egitto e noi avremmo fatto qualcosa. Questo qualcosa non lo facciamo poiché i genitori dall'Egitto non torneranno mai. Dunque, siamo felici perché ereditiamo la casa e facciamo il bed and breakfast. Ma nella notte i demoni escono e vengono a rimordere la coscienza, poiché questo qualcosa che volevamo fare era piuttosto nero e una felicità costruita sulla morte altrui forse è una felicità fragile. Per chi ha una coscienza, e qui si divaricano le strade dei due personaggi. Gaia inizia a sentire la coscienza che le parla e si angoscia atrocemente e vede i fantasmi, mentre Antonio, il marito, non ha per niente, fino alla fine non avrà mai alcun rimorso. Mi viene in mente Match Point. Non so se era. Sì, o anche c'era un film bellissimo con Seymour Hoffman, Onore il padre e la madre. Sì, anche. Certo. Ecco, il conflitto generazionale da Turgenev, ma anche prima, è sempre un topos, no? E mi sa che lo sarà ancora. È irrisolvibile. Sì. Ed è giusto anche che sia così, è sano che sia un conflitto, naturalmente. Sì. Ok. Non è sano invece quello che fanno i nostri personaggi, ma adesso no. Li ascoltiamo. Anna Della Rosa, Rosario Lisma, andate pure ai microfoni. Grazie per la vostra presenza oggi. Sito di riferimento per i nostri ascoltatori, teatrofrancoparenti.it, mentre se volete continuare a scriverci i vostri commenti, 335-56-34-296 o piazzaverdi@rai.it. Oh my God, oh my God, oh my God. Stai calma. Ci stanno addosso, non lo vedi? È finita, che abbiamo fatto? Ma non c'è nessuna colpa, amore, credimi. Sono i fanatici integralisti gli assassini. Ma siamo stati noi a mandarli là. Se non avessimo insistito. Vi abbiamo fatto una sorpresa. Così gli abbiamo detto, sapete? Non viaggiate mai. Abbiamo pensato a voi. Non vi facciamo mai un regalo. Ve lo meritate. E loro, no, ma che, non ci siamo abituati. Gli abbiamo anche comprato il costume da bagno, sapete? Sì, il caldo farà bene alle vostre ossa. Ed ecco qua che cosa gli abbiamo fatto. Ma non siamo perseguibili. Ma poi con chi stai parlando? Li abbiamo solo mandati al mare. Tu credi che io sia stupida? Ma io... È vero, sono stupida, ma anche una stupida a volte può avere ragione. E io lo so, è tutta colpa nostra. Li abbiamo mandati al mare. A morire. In vacanza. Per sempre. All inclusive. Dillo. Dillo a tutti, con tutti i comfort. Non è una cosa brutta, se no le agenzie di viaggio sarebbero vietate dal codice penale. Il nesso di causalità non è riconducibile alla nostra azione. Non è vero. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato. Se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione o omissione. Lo dice anche il codice. Non fare l'avvocato con me, non lo fare, hai capito? Va bene. Allora, tu mi mandi a comprare il latte. E a un certo punto, per strada, dalla finestra mi cade un vaso sulla testa e muoio. E la colpevole sei tu che mi hai mandato a comprare il latte? Sì. No. Sì, perché io voglio che tu muoia. Voglio, Cristo, a tutti capita di odiare alcune persone, ma non per questo si va in galera. Anche se compri l'arma e ti prepari a fare delle prove per poi colpire. Allora, io vado a comprare il latte e tu, che mi odi, dalla finestra aspetti che io sia a tiro per buttarmi il vaso in testa. Ma prima che io arrivi lì sotto mi investe un tram e muoio. Che si fa? La colpevole sei tu che mi aspetti con il vaso in mano? Sì! No! Sì, perché io ti odio! Come mi odi? Tu sei uno stronzo. No, io sono felice. Come fai? Sai chi sono i buoni? Sono quelli che buona hanno avuto la vita. Noi la vita ce l'abbiamo sempre avuta meschina, perciò la colpa non è nostra. Parla per te. No, anche tu sei come me. Tutta la vita... Tutta la vita abbiamo aspettato il nostro momento, ma non è stata una vita, è stata una sala d'attesa. Ma è tardi ormai, è tardi. Camminiamo per i 40 e che cosa abbiamo avuto? Studiate, studiate. Tutta la vita a fare il nostro dovere verso la vita, ma quando è che la vita fa il suo dovere verso di noi? Aspettate, aspettate. Non abbiate fretta. Ma quando arriva il nostro turno? Questi vecchi non muoiono mai, maledetta medicina, ma non lo vedi che prima dei 90 non si schiodano? È cambiato il mondo, Gaia, non è più come una volta. Facevi quello che ti dicevano di fare e il premio sarebbe arrivato. I miei, i tuoi genitori, i premi ce li hanno avuti da grandi. E anche da piccoli erano più felici perché giocavano ed erano liberi di sognare perché tutto sarebbe venuto. Io no. Io da piccolo ho giocato pochissimo. A scuola la maestra mi scriveva sulla pagella benissimo, bambino maturo. Maturo? Avevo 7 anni. Ma come si può essere maturi a 7 anni? Si deve fare i capricci, rompere i vetri. Una volta, questa non te l'ho mai detta, una volta ero giù a giocare in cortile con alcuni bambini, ma non li conoscevo nemmeno, non ci andavo mai. È venuto questo con la faccia simpatica e i capelli lunghi. Mi ha detto una cosa che non ho capito. E intanto si erano fatti attorno tutti gli altri. Gli ho detto, che hai detto? Bam! Uno schiaffone mi ha dato, ma forte. E io per non fare vedere che avevo la guancia tutta rossa me ne sono rientrato in casa. Ma lo sai la cosa più brutta? Che voltando le spalle, io, scemo, pensavo che questo mio contegno fosse più giusto, più nobile. Beh, io quel bambino lì non l'ho mai più visto. Ma se lo rincontrassi adesso, anche se siamo grandi, io te lo giuro, e so che sono nel giusto, io lo ucciderei con le mie mani. Ma cosa c'entra quel bambino cattivo con i tuoi poveri genitori? C'entra. No. C'entra, perché ciascuno ha diritto alla propria felicità e te la fai tu. La felicità dipende da te e dalla tua volontà. Io non la voglio. E sbagli, perché più che un diritto, la felicità è un dovere. Si deve essere felici. Le cose devono essere messe a posto. Ma dimmi una cosa, se loro fossero tornati, tu avresti fatto quello che volevi fare. Volevamo fare, Gaia. Ma lo avresti fatto. Ma non sappiamo nemmeno se quel veleno funziona. Non funziona. Secondo me non funziona. È roba cinese, chissà come lo fanno. No, non funziona. E se avesse funzionato, lo avresti fatto. Io so che ora questo era il nostro turno. E ora comunque la casa è nostra. E il nostro bed and breakfast ci libererà dalla miseria e dal grigiore.